Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Individuati e perquisiti alcuni ultras presunti responsabili degli scontri al Friuli dopo Udinese e Napoli. Doppio infortunio sul lavoro a Sacile, ferite e traumi alle braccia, operai in ospedale. Il Friuli Venezia Giulia in testa in Italia per crescita del PIL, ma il contesto resta piatto. Consorzio Cellina Meduna, bilancio inattivo nonostante un 2022 di siccità e caro energia. Rispettami a scuola il ricordo di Nadia, vittima di femminicidio, è una canzone scritta con Marco Anzovino. Morto il padre priore di Barbana, Don Benedetto aveva 53 anni, domani le esequie in Brasile. Zero calcare, l'eredità di Tiziano Terzani nell'opera del disegnatore premiato oggi a Udine. 12:31, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. Cominciamo dalla cronaca. Sono stati individuati alcuni dei presunti responsabili degli scontri allo stadio Friuli d'Acciarena durante i festeggiamenti dello scudetto del Napoli. C'è ancora riserbo sulle attività di indagine in corso in queste ore per individuare responsabili e attribuire responsabilità penali per i fatti accaduti nello stadio Friuli giovedì sera al termine di Udinese-Napoli. Tuttavia il lavoro procede spedito. Come riferisce l'agenzia ANSA, sono state eseguite perquisizioni. I numerosi filmati della videosorveglianza interna dello stadio e dei telefonini favoriscono le identificazioni. Potrebbero esserci denunce o, se la questura lo riterrà opportuno, persino arresti in quasi flagranza. Per ora le attività sono tutte in mano alla polizia giudiziaria, conferma il procuratore capo Massimo Lia. Non abbiamo ricevuto ancora nulla di ufficiale, anche se rimaniamo in contatto costante, aggiunge Lia. Più lunghi tempi per i DASPO e provvedimenti amministrativi che impediscono di partecipare ad eventi sportivi. Il caos si è verificato nonostante gli accordi presi tra la Digos e le tifoserie organizzate di entrambe le squadre, accordo che peraltro è stato mantenuto. Gli ultra del Napoli sono rimasti ai loro posti, così come la grande maggioranza dei tifosi della Curva Nord, a parte quelle poche decine di facinorosi scesi in campo con cinghie e bastoni. Gli accordi prevedevano che in caso di invasione i tifosi del Napoli rimanessero lontani dalla curva udinese. Non tutti gli oltre 10.000 biancazzurri però erano controllabili dai gruppi organizzati di tifosi. Alcuni di loro sono andati nei pressi della Nord con gesti provocatori, scatenando così la reazione delle teste calde della curva dell'Udinese. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Due uomini di circa 30 anni di età sono stati soccorsi dai sanitari questa mattina per le ferite riportate in un incidente sul lavoro in un'azienda di verniciatura di componenti per mobili a Sacile, in strada Geromina. Per cause ancora da accertare, mentre stavano utilizzando un macchinario sono rimasti feriti alle mani e a parte degli avambracci, riportando traumi da schiacciamento. A dare l'allarme ai colleghi che hanno chiamato il numero unico di emergenza 112. La SORES ha inviato un'ambulanza da Sacile, l'automedica da Pordenone e l'elisoccorso, allertati anche carabinieri e vigili del fuoco. I due operai feriti sono stati trasferiti in ambulanza in condizioni stabili e sempre coscienti al Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Dopo un 2022 da record, il rallentamento della crescita del PIL previsto per quest'anno in tutta Europa interesserà indistintamente anche le nostre regioni. La Lombardia e il Nord-Est comunque continueranno a trainare il paese, rafforzando la leadership del nuovo triangolo industriale allargato. La notizia buona è che nel 2023 il Friuli Venezia Giulia, assieme al Veneto, guiderà la classifica della crescita del PIL con un più 0,82%. Prima sì, ma in un contesto di sostanziale appiattimento fra i tassi di crescita delle varie regioni e le differenze si misurano in termini di decimi di punto percentuale. La media nazionale è infatti dello 0,69%. La fonte dei dati è Prometeia, aggiornata al mese di aprile, con l'elaborazione che misura le differenze fra regioni fornita dall'ufficio studi della CGA di Mestre. C'è un'evidente differenza con il 2022, quando si era registrato un forte rimbalzo dell'economia nel dopo Covid. La media nazionale di incremento del PIL era stata del 3,67, praticamente 5 volte quella stimata per l'anno in corso. Il Friuli Venezia Giulia era, seppur di poco, sotto la media, 3,56. Nella nostra regione si registrerà una crescita pari a un quarto rispetto all'anno precedente. Il sistema economico del Nord-Est sembra aver assorbito meglio i fattori di instabilità, guerra, caro energia, inflazione, siccità. Secondo Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio studi della CGA, sono due i fattori che continuano a influire positivamente sulla crescita, l'export e le attività collegate al turismo. I consumi delle famiglie e la produzione industriale rimarranno su livelli elevati. In sofferenza ci sono l'edilizia, che sconta il progressivo superamento dei bonus, e l'agricoltura, messa in ginocchio dalla siccità. Secondo la CGA, lo storico triangolo industriale Milano-Torino-Genova si sta spostando decisamente verso est. La conferma, oltre ai dati sul PIL, arriva dai transiti autostradali dei mezzi pesanti. C'è molto più movimento tra Brescia e Padova che tra Milano e Torino. La A4 Venezia-Trieste registra flussi superiori rispetto alla Milano-Serravalle, collegamento verso Genova. Inoltre la A23 Udine-Tarvisio è molto più trafficata della Torino-Savona. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. 47 anni fa il terremoto del Friuli, un migliaio di vittime tra maggio e settembre e il volto del territorio cambiato per sempre dalla distruzione alla ricostruzione. Tante le cerimonie per ricordare. Da Gemona, dove a partire dalle 18 sarà reso omaggio alle vittime e ai soccorritori con una commemorazione alla caserma Goi Pantanali, dove morirono numerosi artiglieri alpini, una messa solenne e la processione verso il cimitero. A Venzone, con una funzione di commemorazione in Duomo. Ad Artegna, alle 20, con una messa e un omaggio al sacrario delle vittime. A tutti gli altri centri del Friuli che maggiormente patirono la distruzione e la morte a causa del sisma. Ora il meteo, il cielo è da sereno a poco nuvoloso, le temperature registrate alle 11, a Trieste 17 gradi e mezzo, a Udine 21 gradi, a Pordenone e Gorizia 22, a Tolmezzo 21 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 19 gradi, a Sappada 16 e mezzo, sul Piancavallo 15 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 19 gradi, sul Monte Zoncolan 12 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 11, sulla costa a grado 18 gradi, a Lignano 21 gradi e mezzo. Vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti, dove dal pomeriggio saranno più probabili piogge sparse e qualche temporale. E ora parliamo del bilancio inutile per 21.500 euro per il consorzio di bonifica Cellina Meduna in un'annata che è stata eccezionalmente negativa come il 2022, che ha visto fra l'altro la voce di spesa relativa ai consumi elettrici per i pompaggi aumentare in pochi mesi di 1 milione di euro. Il consuntivo dell'ente si è rivelato dunque inattivo pur a fronte di emergenze mai viste dalla storica siccità all'aumento esponenziale dei prezzi dell'energia associati al crollo della produzione idroelettrica. Sono stati soprattutto il clima estremamente secco e l'inflazione a mettere a prova gli uffici, come illustrato al Consiglio dei Delegati dal presidente Walter Colussi. Accanto all'aumento dei consumi elettrici, la carenza di pioggia e la necessità di risparmiare più acqua possibile nei bacini hanno imposto di produrre poca energia idrica nelle centraline. Ma la rete, ha ricordato Colussi, è stata sottoposta a costante gestione e manutenzione. La Regione, da parte sua, ha garantito sostegni finanziari ai vari enti irrigui, nel caso del consorzio per 982.000 euro. Il lavoro del consorzio ha permesso di salvare l'intero raccolto della stagione agricola provinciale. Niente mutui o prestiti da accendere nel 2023, mentre prosegue la campagna di innovazione della rete per sostituire i vecchi impianti che richiedono più acqua. E anche le rogge di Udine sono in manutenzione per accogliere gli alpini della Dunata. Il consorzio di bonifica pianura friulana sta eseguendo infatti dei lavori di sfalcio della rete che rientrano nella convenzione tra il consorzio e il comune di Udine, rinnovata a gennaio con durata decennale, e che saranno ultimati per l'inizio della Dunata alpina. Il cronoprogramma contempla poi un secondo sfalcio di tutti i canali entro la fine di luglio. Il terzo si terrà in occasione della manifestazione di settembre di Friuli Doc. L'obiettivo è garantire nell'arco di tutti i mesi estivi la pulizia delle sponde e lo sfalcio della vegetazione, ha detto la presidente Rosanna Clocchiatti, per ragioni di decoro urbano, oltre che per motivi di natura igienico-sanitaria, volti a prevenire la proliferazione di insetti e ratti. Gli interventi non comportano asciutte dei canali. L'importo delle manutenzioni è di 150.000 euro. A 45 anni dall'approvazione della legge 180, a pochi giorni dai tragici fatti di Pisa, nell'ambito della 12ª edizione di Rose, Libri, Musica, Vino, la conferenza permanente per la salute mentale nel mondo, Franco Basaglia ha promosso un momento di confronto tra coloro che operano nella salute mentale e nel sociale. Abbiamo intervistato la presidente, la psichiatra Giovanna Del Giudice, che dice basta con la non imputabilità. Abbiamo molto presente noi che operiamo nella salute mentale. Intanto c'è da affermare che le persone, lo possiamo dire con certezza, dopo tanti anni di lavoro nella psichiatria, nella salute mentale, dopo la chiusura degli ospedali civili ma anche degli ospedali giudiziari, che oggi è necessario dare avvio ad una riforma sulla imputabilità di tutti. Le persone anche con disturbo mentale severo, abbiamo evidenza che sanno quello che fanno e quindi devono assumersi la responsabilità delle loro azioni. Se poi le persone stanno male, devono essere curate nel carcere o se la loro malattia è incompatibile con la carcerazione, come per qualsiasi malattia, in luoghi altri. Ma va affermata l'imputabilità di ognuno, con anche persone con disturbo mentale, e va affermata quindi la fine di quel doppio binario che esiste fra persone con disturbi mentali e persone sane. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori di Udine, protagonisti oggi di Rispettami, un progetto di educazione al rispetto di genere. Il seme lasciato da Nadia Orlando, vittima di femminicidio, è germogliato arrivando alla 6ª edizione di Rispettami, un progetto partito dall'istituto frequentato da Nadia, lo Zanon, e che grazie alla biblioteca civica Ioppi ha coinvolto tutte le scuole udinesi. Un anno di attività svolta sia in classe che in incontri pomeridiani, i risultati di questo lavoro trasversale sono stati presentati all'auditorium dello Zanon, presente Antonella, la mamma di Nadia. Giampaolo Lucca, coordinatore del progetto. Io ero un docente di Nadia e all'interno del collegio di docenti a settembre c'è stato un intervento in cui abbiamo detto che la scuola non può restare indifferente di fronte ai fenomeni del femminicidio. Luca Roncadin, coordinatore delle attività. È stato un incredibile viaggio nei sentimenti, nelle emozioni. Abbiamo coinvolto tanti ragazzi che hanno prodotto dei lavori di grande valore che potete visionare sul blog Mai più Barba Blu. Eric Marcus, studente del gruppo lettura. Noi lavoriamo per sensibilizzare su questo tema per evitare in futuro altri atti del genere. Grande attesa e successo per la canzone Rispettami, scritta durante le attività del laboratorio di soundwriting di Marco Anzovino, ma anche per il video musicale della stessa canzone prodotto dai ragazzi del laboratorio multimediale. Marco Anzovino, autore. Questa canzone collettiva scritta da un gruppo di ragazze, secondo me è un messaggio importante che arriva tra pari, quindi penso che entrerà nel cuore di tanti ragazzi. Lucy Bandelli, una delle autrici del testo. Abbiamo pensato tutti assieme a magari frasi che abbiamo sentito dire oppure frasi che ci venivano dal cuore, diciamo, e le abbiamo trascritte e poi assieme abbiamo preso le frasi migliori, unito varie parole ed è uscita la canzone. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. È morto il padre priore di Barbana, Don Benedetto dell'Ira Albertina, aveva 53 anni. Originario di Recife, in Brasile, aveva fatto professione monastica nella Congregazione Benedettina del Brasile nel 1991. Ha vissuto in varie comunità della Congregazione in Brasile e poi in Italia, a Bologna. È stato ordinato sacerdote nel 1998. Eletto priore conventuale nel 2007, nel gennaio 2020 si era trasferito a Barbana, divenendo successore immediato dell'abate Giovanni de Moraldis. Nei 3 anni sull'isola ha cercato di conservare e rilanciare la devozione alla Madonna di Barbana, ereditata dai francescani. Le esequie saranno celebrate domani in Brasile, nel monastero di Olinda, dove sarà tumulato. E compie 40 anni l'opera salesiana La Via Arte di Santa Maria la Longa, impegnata a favore dei giovani più bisognosi. Questa mattina la visita del Vescovo di Udine, Monsignor Mazzoccato, che ha benedetto i nuovi locali costruiti per l'accoglienza, la formazione e l'animazione degli adolescenti. Abbiamo intervistato il direttore della comunità educante, Don Stefano Pegorin. Dal 1983 la Via Arte si prende cura della fragilità di tante persone. Inizialmente, per tutti gli anni dal 1983 al 2008, la Via Arte si è presa cura di adulti che venivano dal mondo della tossicodipendenza. Nel tempo poi il bisogno è leggermente cambiato e si è presa cura di minori che hanno bisogni di carattere socioeducativo, fragilità, marginalità sociale. E attualmente la Via Arte ospita 25 ragazzi, minori e giovani adulti che nella rete dei servizi sociali, dell'azienda sanitaria, con dei progetti integrati, cerca di proporre un cammino di autonomia e di cura per loro. In questa occasione verranno inaugurati dei nuovi locali. Che locali sono e a cosa serviranno? I locali inaugurati sono dedicati ai laboratori di formazione professionale. Tanti ragazzi hanno difficoltà a seguire un percorso scolastico ordinario. La dispersione scolastica è in aumento. L'inaugurazione di questi nuovi locali è una risposta concreta a questo bisogno che è dilagante e tante situazioni difficili richiedono una risposta flessibile, richiedono una risposta pronta che in qualche modo possa andare incontro alle loro fragilità. Si cerca di fare maturare le competenze professionali, ad esempio, non attraverso un percorso ordinario di scuola, ma attraverso la formazione professionale fatta con un educatore, quindi con un progetto personalizzato in base ai bisogni di ciascuno. Fra i protagonisti di oggi di Vicino Lontano c'è Vera Politkovskaja, che alle 15 nella chiesa di San Francesco a Udine racconterà sua madre, la giornalista russa Anna Politkovskaja, assassinata il 7 ottobre del 2006. Ma è anche la giornata della consegna del premio letterario internazionale Tiziano Terzani, in programma alle 21 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Vincitore dell'edizione 2023 è il fumettista Zero Calcare, alias Michele Rec. Per il graphic novel No Sleep Till Shengal, al quale abbiamo chiesto che cosa di Terzani si può ritrovare nella sua attività di fumettista. Nella vignetta di ringraziamento che hai inviato al festival scrivi che Terzani era un autore che leggevi da piccolo. Quali sono i valori del suo pensiero, dei suoi scritti in cui pensi di ritrovarti poi nella tua attività di fumettista? In realtà credo che mi abbia influenzato soprattutto l'idea di guardare con uno sguardo di curiosità verso qualcosa che magari non è esattamente quello che ci abbiamo intorno a noi, ma da cui possiamo imparare un sacco. Penso che questo tentativo di andare a pescare degli insegnamenti da quello che ci sta intorno è un po' quello che mi è rimasto, ecco. Nel tuo libro parli di confederalismo democratico, assemblee di villaggio, di quartiere. È un modello che magari non è applicabile a livello macro statale, ma sulle piccole comunità anche in Italia potrebbe essere esportato. Secondo me la sfida è un po' capire come questa cosa si può cercare di portare qui. È ovvio che nei nostri mega agglomerati non si può riportare come se fosse una ricetta, però cercare anche di scorporare questi mega agglomerati e capire dove stanno le comunità, dove si possono annidare i legami di solidarietà tra le persone, eccetera, è qualcosa che secondo me noi dovremmo capire per campare un po' meglio. Come in Kobane Calling racconti una storia lontana che però ci rappresenta da vicino. Alla fine poi scrivi che nel nostro animo è impossibile, cioè puoi solo provare a fotografare dei momenti, ma è impossibile poi fermare quel flusso. È un po' una ricerca infinita, come fu anche quella di Tiziano Terzani, che anche poi alla fine è molto estenuante, immagino. Sì, è una ricerca infinita perché poi uno si rende conto che comunque non è mai fissa, cioè la vita poi non è che si ferma nel momento in cui tu decidi di fissarla in un fumetto o in una fotografia, e in quel caso specifico poi parliamo di persone che stanno veramente cercando di reinventarsi e di anche criticandosi e di migliorarsi sempre, quindi in realtà uno dovrebbe veramente cercare di starli sempre appresso per raccontarla. Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora alcuni appuntamenti con gli spettacoli di oggi, è dedicato al bel canto, alle donne di Puccini in versione pianoforte a quattro mani, l'appuntamento dei concerti al Castello alle 20 nella Sala del Trono del Castello di Miramare a Trieste, ospite il duo pianistico composto dai fratelli Aurelio e Paolo Pollice, allievi delle prestigiose scuole di Sergio Perticaroli e Antonio Ballista. Sarà il pianista Olaf John Laneri il protagonista della conferenza concerto che si terrà alle 18 nella sede dell'Università di Udine a Palazzo Antonini, nell'ambito della stagione musicale dell'Accademia Antonio Ricci. L'associazione musicale Sante Savide organizza Incanto a Primavera, 16ª rassegna per cori di voci bianche, alle 17 nella chiesa parrocchiale di Goricizza. A Butrio i Trigeminus presentano Trr Uffa, uno spettacolo per mettere in guardia la popolazione dai sempre nuovi stratagemmi per ingannare malcapitati cittadini. Lo spettacolo è organizzato dal Corpo di Polizia Locale del Friuli Orientale nell'ambito del progetto Sicurezza e in collaborazione con IRSS, alle 20.45 sul palco dell'Auditorium Giuseppe Piccini in via Lungoroggia a Butrio. L'ingresso è libero fino all'esaurimento dei posti. Telefonando che c'è un incendio sulla nave, il titolo dello spettacolo che andrà in scena alle 20.30 nel magazzino 26 del Porto Vecchio, in sala Luttazzi, con ingresso libero a Trieste. Il lavoro è dedicato al disastro della motonave Elisabetta Montanari avvenuto a Ravenna nel 1987. A Trieste, alla libreria Ubic di Galleria Tergesteo, presentazione del libro Tesla, Il Signore dei Fulmini, le origini, biografia a fumetti di Zivorad Zikomisic, alle 16.30. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Giovanile Serba di Trieste. E sempre a Trieste, alla libreria Minerva, alle 17.30, presentazione di Bestie, femminile e animale, raccolta antologica illustrata di poesie di 5 poetesse italiane contemporanee. Per le nostre rubriche domani mattina su queste frequenze, dopo il giornale radio delle 8.30, andrà in onda Vita nei Campi. Sentiamo di cosa tratterà. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura le proposte didattiche dell'Istituto Professionale Agrario Sabatini di Pozzolo del Friuli. A seguire una roadmap per districarsi nella complessa normativa della nuova politica agricola comune. Nella rubrica del vino gli indici di maturazione e la macerazione del pigiato. E avremo poi per la rubrica dei forestali i grandi alberi del Friuli Venezia Giulia, i lavori da fare in orto in questo mese di maggio. E per la rubrica della gastronomia la versatilità delle zucchine declinate in una torta salata. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo, il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. In televisione invece su Rai 3, nuova puntata di Est Ovest, la rubrica diffusione nazionale curata dalla nostra redazione e dedicata all'Europa centro-orientale. Il sommario. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, in pellegrinaggio di pace tra l'Ucraina e Mosca. Dal pensiero di Tolstoj alle manifestazioni contro Putin, le radici del pacifismo in Russia. Bratislava, la capitale della Slovacchia, è all'avanguardia nel riciclo di ogni qualità di plastica. I programmi per la reintroduzione delle linci nelle foreste della Slovenia e del Friuli Venezia Giulia. Il Festival del Jazz Balcanico di Tirana, una vetrina internazionale per i compositori ed esecutori pugliesi. Tutto questo a Est Ovest, domenica alle 11 su Rai 3. È tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Roberto Cavallari e Mauro Cumin. In redazione ha collaborato Cristina Polselli. Da Rita Micoli e Lara Zani, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.